Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. MSX nasce da una mancanza politica, culturale ed immaginario. È una raccolta di 10 corti porno erotici scritti e diretti da 10 donne che per la prima volta in Italia si confrontano con la pornografia. A me, per esempio, piacerebbe vedere una sessualità non così centrata sui genitali, ma in cui tutto il corpo, la pelle, sia un organo di piacere. In Italia ogni discorso sulla sessualità è ancora tabù. Per produrre i nostri corti abbiamo bisogno di voi. Certo che argomento scabrosetto questa mattina, signore che state in ascolto, state lì a girare, rigirare il ragù, vi saranno già rizzati i capelli. Perché la pornografia non può essere anche per le donne. Non facciamo finta che non esista, è un mercato immenso, smisurato, ma qualcosa serve evidentemente. Certo, ci saranno quelli che voi considerate maniaci compulsivi, che si consumano le diottrie e i calli si fanno venire di fronte a film porno, ma ci sono anche quelli che magari sono curiosi, sono interessati, gli piace vedere delle cose che nella vita non avranno mai fatto, non faranno mai, hanno bisogno di ispirazione per ridare sapore alla loro sessualità concreta, o perlomeno sono fatti suoi. Non facciamo finta di non immaginare e non sapere che al di là delle rappresentazioni artistiche, dei film patinatissimi, dove poi alla fine si vedono sempre le stesse cose, basta accendere un computer e tutto quello che una volta era riservato agli anfratti nascosti, umidicci e peccaminosi delle edicole e di alcune librerie è facilmente alla portata di tutti, anche gratuitamente. Oggi il porno in internet non costa nulla, sembrava prima il grande mercato, si scaricava, si comperava, ma oggi soltanto i poveri pensionati vanno a comprare. Infatti ci sono delle bancarelle qui a Piazza Esedra, dove in dei luoghi infimi in cui si vendono le peggiori paccottaglie, ci sono ancora dei DVD, addirittura dei VHS con vecchi film zozzi anni 70, quelli ancora con Cicciolina, con Moana, con questi porno attori dai nomi esotici, ma in realtà erano tutti di Frosinone, di Latina, di Torpignattara, capite? Ci vanno questi poveri, gli Umarell, lì con le mani dietro la schiena, alternano la visione del cantiere alla l'acquisizione del VHS, vanno a casa, riguardano, ricordano, rimembrano, allucinano, sono fatti loro. Ma tutto questo è sempre stato considerato e trattato come una sorta di sordido mondo maschile. Ma non hanno anche le donne diritto comunque di godersi la pornografia se vogliono? Non fa male a nessuno. Qual è l'equazione femminile della rappresentazione dell'erotismo, della sessualità? Non vogliamo fare finta che la pornografia sia soltanto femminile, legata, non so, a una visione romantica, l'accarezzarsi, il correre sulle spiagge con cavalli bianchi, nell'avere il piacere del contatto del proprio corpo e tutte queste cose qua. Le donne, piacerà anche loro vedere delle furiose cavalcate in mare, immagino, come anche agli uomini, ma probabilmente hanno anche diritto di dire che anche loro sono, diciamo, a tutti gli effetti possibili, potenziali protagoniste, e lo sono chiaramente. In ogni film porno ogni tanto appare anche donne insieme agli uomini, ai cavalli, agli animali da cortile, via dicendo, ma anche, diciamo, menti pensanti o con capacità di proporre una loro visione. Beh, tutto questo vorrei innanzitutto confrontarmi col pubblico femminile. Avete il coraggio questa mattina di raccontarmi? Guardate film porno? Vi piacerebbe i film porno immaginati per voi donne? Come voi immaginereste un film porno fatto da voi e non fatto dagli uomini? E che praticamente è una roba inutile di trama che non serve a niente, in cui si va velocissimi avanti per arrivare al punto in cui c'è l'accoppiamento selvaggio. 800 24 00 24. Perché mi diverte provare a raccontare come nasce il desiderio e come si scatena. Perché a me i porno piacciono e mi eccitano e potrebbero essere molto più potenti se fossero liberatori e creativi. Perché ho l'assurda ambizione di realizzare un prodotto che sia allo stesso tempo pop, godibile e consapevolmente politico. E anche perché la vita sessuale delle donne italiane non è... Tiziana Loporto, buongiorno. Buongiorno. Tiziana Loporto, mi viene da ridere perché un'amica mia, ho sempre conosciuto come una raffinatissima traduttrice, donna di lettere e d'ingegno, e oggi vedo promotrice dell'iniziativa di cui stiamo parlando, Le ragazze del porno, My Sex, 10 cortometraggi porno erotici girati da 10 donne. Ti dico subito una cosa, Tiziana, quando sento il senso politico mi viene in mente una sorta di ammosciamento perenne che durerà fino alla fine dei nostri giorni. Però dimmi te esattamente che state immaginando. Ho visto il vostro trailer e mi ha subito incuriosito. 10 signore, che non hanno per nulla le physique du rôle delle porno star, quindi non sono carne da film porno, che hanno deciso ce lo inventiamo noi il nostro porno perché ci diverte, è giusto che vi diverta. Dimmi com'è il tuo approccio riguardo a questo mondo sconosciuto che d'oggi in poi ti farà guardare da me con occhi diversi. Allora, l'idea, intanto non sono due cose separate, tu prima dicevi menti pensanti. Ma lo so, ma sto scherzando. Menti desideranti. È la parola politico, dai, la parola politico, cancellatela però per favore, dai. La parola politico però ci sta pure così. Ma dai, anni 70, antica, nato, dai. Noi il nostro corpo, però, dai. Però è nato un progetto che è nato, la nostra missione politica è erotizzare questa Italia anche. Pensiamola così. È un po' il paese di morti viventi, ma è un paese esatto, di zombie, dai. Un paese sempre meno erotico, e però questa cosa qui non va bene. Io il progetto è nato da una semplice considerazione, che l'immagine che si dà delle donne italiane, soprattutto fuori, è un'immagine non reale. Non c'è niente di politico con questo, però da un lato. E qual è l'immagine? Hai... Dai, tu che sei una donna di cultura viaggio. L'immagine di queste registe che vogliono girare dei corti porno, tutto questo è reale. Il reale sta accadendo in questo momento, non c'è la scissione tra escort e donne che passano le giornate a cucinare. Però guarda, se c'è stata una battaglia politica in Italia è stata quella che la sinistra ha fatto nei confronti delle escort, che la trattate come fosse carne da macello. Esatto, e però lì si rischia di perdere l'erotismo e la bellezza. Sembra improvvisamente essere buoni significa essere puritani, che è una cosa che mi viene il vomito a pensare. Essere puritani, e soprattutto c'è questa pratica del farsi brutte che sta diventando una cosa troppo ricorrente, invece la bellezza, l'erotismo sono tutte cose anche pasoliniane se vogliamo, e questo non è una cosa che dai, fammi capire, voi siete 10 amiche, avete detto noi guardiamo i film zozzi, ci vogliamo fare per conto nostro. No. Allora, è nato da... ci sono un po' di progetti simili altrove nel mondo, anche Lars von Trier è stato promotore di film porno al femminile, fatti da donne, pensati per donne, dove però non c'era, perché sono pensati pure per gli uomini, non è neanche così separato in due il mondo. Ci sono in Svezia, ci sono in Francia, ci sono in America, e dappertutto. Io ecco, spiegami delle esperienze simili che stanno in varie parti del mondo, che non c'è nulla di strano, dove le donne immaginano un erotismo attraverso dei film che a loro piace, che attizzi anche loro, non sia soltanto per uomini. Che attizzi, sì, e che poi comunque la pornografia negli ultimi 30 anni, diciamo, dagli anni 80 in poi ha smesso un po' di essere erotica, almeno per noi donne non è erotico quello che vediamo, quindi si può fare del cinema pornografico migliore, si può nobilitare la parola pornografia e renderla più erotica, questa è un po' l'idea che ma abbiamo fammi un noi. Esempio, fammi un esempio, io ho perfettamente consapevolezza cosa sia la pornografia per maschi, che è anche abbastanza noioso, non ne puoi più veramente, esatto. Grandi ammucchiate, obelischi di carne smisurati, inondazioni bibliche, capito? Vabbè, visto questo uno torna a casa e dice vabbè, mi rendo conto dei miei limiti e si mette a dormire, ma quella che piace alle donne com'è invece? È più verso il cinema d'autore, ti posso citare dei film che piacciono a noi, ci piace la pornografia dell'età dell'oro della pornografia, ci piace Behind the Green Door, è un signor film, è un film bellissimo, ci piace il cinema d'autore che può andare da Ultimo Tango a Parigi a... Lo trovate erotico Ultimo Tango a Parigi? Sì. Se è soggettivo quello che ti dico io posso chiedo a te perché tu hai un punto di vista diverso dal mio, sennò esatto, è un'altra cosa importante per cui vogliamo fare dei corti e non un lungometraggio, è questo, cioè non possiamo sì, però uguali. Voi parlate di film porno o diciamo un erotismo patinato che può andare anche nelle sale cinematografiche? Il porno è porno, il porno è autore, il porno è porno, però il porno può essere migliore del porno che si fa. Cioè non bisogna relegarlo, siccome il porno è diventato questa roba qui ed è costretto a stare, liberiamolo questo porno, facciamolo diventare un cinema d'autore, non è che la pornografia nasce. Ma voi vi metterete anche in gioco personalmente, cioè facendo anche le protagoniste dei vostri film? Una domanda che a nessun regista uomo verrebbe fatta. Questo è indicativo dello stato delle cose. Se io ti dico, faccio una campagna per il film porno per, che ne so, i giornalisti sessantenni scriteriati, uno dice ma Giallutti ci metti te lì col ciufolo di fuori oppure no? Ci saranno degli attori, si lavora con gli attori come ogni regista fa, quindi noi ci stiamo mettendo le nostre facce, i nostri nomi, perché è giusto fare una battaglia. È perché nel trailer siete nude voi. E quello è un trailer, È un film. Senti una cosa, Stefania, cerca di far capire un po' alle persone che ci stanno ascoltando, che saranno inorridite le ascoltatrici, come possa esistere anche una dimensione onirica che non sia soltanto legata all'idea del romanticismo, dell'amore finalizzato alla coppia, ma che sia anche una sana trasgressione mentale e psica anche per le donne. Io credo che lo sappiano già, nel senso che è veramente il porno, la sessualità, non il porno, però la sessualità e l'erotismo appartengono al nostro vissuto e quindi è una cosa che ce lo teniamo privato, non viene reso pubblico, non vengono fatti film. Nell'arte, ad esempio, è stato ultra indagato, non è una cosa, è semplicemente mettere in comunicazione, non tenerla come una pratica privata, come una cosa che rimane soltanto nella sfera del desiderio. Non so, gli artisti servono a quello, a dare. Ma fermo un attimo, Tiziano Lopotto, telefono alla prima donna, coraggiosissima, perché sono, immagino, impietriti, perché di tutto parlano volentieri, ma non di una cosa che in realtà è la vera appropriazione del predominio maschile di essere registi e gestori del proprio onirico sessuale. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Guarda film porno. Laura? Io sì, sì. Per, finalmente, no, sembra che sia una cosa soltanto che serve soltanto a far diventare ciechi i maschi. Cosa vedrebbe di più mirato perché possa essere veramente uno strumento per cui è stato fatto? Cosa serve il porno? A risvegliare la fantasia, a suggerire cose di cui non si era pensato, anche vederselo magari in due, in tre, in quattro, in cinque e avere la sorta di idea di riverbero speculare di quello che fanno gli altri, quello che facciamo noi, poi ognuno ci fa quello che vuole. Lei come donna cosa ne fa del porno? Ma io penso che tutti noi abbiamo delle fantasie e abbiamo fortuna. Il desiderio di vederle rappresentate. Basta capire che la fantasia non è la realtà, perché a volte secondo me noi donne cadiamo un po' in questo errore, cioè nel pensare che se abbiamo una fantasia poi però pensandoci di metterla in atto ci sentiamo anche un po' in colpa nel vivere la fantasia. Beh, avete una condanna biblica che vi condanna sempre, che ogni cosa deve fare da essere mirata al parto dolorifico, quindi è chiaro che se voi immaginate di poter fare cose che vi danno piacere è logico che esista questo preconcetto che è difficile da togliere, quindi sì, magari la Bibbia la lasciamo da parte. No, vabbè, per dire l'origine di tutti i mali, non so, ecco. Invece E poi c'è anche un'altra cosa, che a volte pensiamo che sia una cosa che bisogna per forza confidare al partner, ad esempio, perché magari se si ha un desiderio, se si ha una fantasia, è perché magari c'è una carenza da un'altra parte. Sì, però il partner a volte dà anche gusto al partner sentire una donna gli confida i suoi pensieri più incredibili, capito? È un segno di intimità. Sì, poi penso. Quello secondo me dipende anche dalla coppia. Solo che dopo diventa geloso, vero? Che tipo di comunicazione c'è nella coppia? No, non è detto. Laura teme di confidare al suo partner alcune sue fantasie, pensando poi dice poi magari pensa che l'ho fatto davvero, potrei farlo. No, però vi ripeto, cioè ci sono tempi, modi e contesti, cioè se è qualcosa che mi piace, mi piacerebbe fare, si trova il modo di iniziare a farlo, magari piano piano. Se è una cosa che è invece nella fantasia e non metterei mai in pratica, allora se ne parla in un'altra situazione, in un altro momento in cui magari l'intimità non c'entra niente, cioè magari si sta facendo, che so, si sta... C'è il caso di un mio collega amatissimo e scomparso, che a un certo punto si trova la moglie che diventò famosa per delle sue, perdizioni erotiche con cavalli. È chiaro che quando arriviamo a quel punto, probabilmente per molti è meglio che rimanga nell'ambito della fantasia, poi ognuno fa le scelte che vuole. Ci fermiamo un istante, poi sentiamo le ragazze con Tiziano Porto che hanno lanciato l'idea, le ragazze del porno, My Sex, 10 cortometraggi porno erotici fatti da 10 donne. Melog, cronache meridiane. Questa mattina parliamo di un argomento abbastanza nuovo, il punto di vista femminile riguardo alla pornografia. Non pensate che questo termine debba racchiudere mondi foschi o mondi soltanto legati a qualcosa di triste, di squallido. La rappresentazione dell'erotismo esplicito può essere anche gioiosa, divertente, incuriosente, può cambiare il senso di una serata, può aiutare molte persone a avere spunti, a avere stimoli, ma se fossero donne a immaginare e pensare questo, come si comporterebbero le donne? Guardate che in molti paesi più civilizzati rispetto alla percezione della sessualità dei nostri, è normale che esistano festival, concorsi, premi, contributi statali a donne che immaginano anche questo settore della rappresentazione della realtà. Magari potremmo scoprire dei punti di vista che non immaginiamo rispetto a quella che è la classica pornografia, che in fondo è sempre uguale, cambia poco. Si è cominciato con le grandi star, poi oggi le star si camuffano da persone comuni e poi non so quale sarà la soglia ultima, perché ormai ho un po' passato l'età. Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che innanzitutto guardo senza alcun problema film pornografici al maschile, come vengono definiti stamattina. Francamente non riesco a capire la distinzione tra pornografia al femminile e al maschile, cioè pornografia è pornografia, appunto. Cioè, dal mio punto di vista le donne dovrebbero dovrebbe essere sdoganata l'idea che noi donne abbiamo di noi stesse, che ci imponiamo di essere così romantiche, pure, no? Insomma, lei si immagina, come anch'io, soffrendo di un odiosissimo luogo comune stereotipo, dico, ma il porno delle donne sarà un porno a Holly Hobby, in cui tutti bei corpi che camminano, si accarezzano, tutte belle, carine, coi capelli. Così sembrava dalla descrizione. Sì, no, ma perché noi siamo viziati da un'immagine. In realtà c'è anche roba cruda, immagino. Anna Negri, buongiorno. Buongiorno. Regista e sceneggiatrice che fa parte di questo progetto. Risponda alla donna che dice, sì, ma il film porno donne non sa che sarà una bella noia, una cosa patinata tipo spot pubblicitario di deodorante intimo, ma in realtà non si vede niente. È così? No, assolutamente no, semplicemente cambia il punto di vista. Vediamo se riesce a rappresentarci come cambia il punto di vista, anche per le signore che ascoltano, che sono molto incuriosite a sapere com'è la pornografia costruita per loro. Ma intanto io vorrei dire una cosa, che pornografia ha una connotazione negativa, perché la pornografia che si fa è, voglio dire, brutta o degradante o eccetera eccetera, ma in realtà pornografia significa semplicemente messa in scena dell'atto sessuale. Allora noi quello siamo anche provocatori chiamandoci ragazze del porno, proprio perché mettiamo in discussione il fatto che l'atto sessuale debba essere solo quella cosa lì, che perché al momento l'unica cosa esistente. Detto questo, non pensiamo assolutamente che la sessualità femminile, un punto di vista della sessualità femminile, debba essere contenuto in una sorta di romanticismo, di cosa da romanzo rosa, liala, eccetera, eccetera, perché penso che molte donne rivendicano, proprio per esprimere in pieno la propria sessualità, rivendicano anche delle sfere più hard, semplicemente. Beh, il sesso è umori, sudori, gemiti, urla, uno sì, sopra, uno sotto, non è sì, sennò ma che... può essere tenerezza, può essere anche espressione di pulsioni più forti, no? Non è mica detto che le donne devono solo esprimere la tenerezza, perché sono madri, ma non è vero, cioè le donne sono degli esseri complessi. Allora le faccio una domanda più precisa. Se io vedessi un film porno fatto da donne per donne, mi accorgerei della differenza? Assolutamente. E in cosa è diverso? Beh, intanto, allora, io credo che una delle cose sia che la sessualità femminile sia diversa da quella maschile, che diciamo va più, molto di più al, come dire, al goal, no? Ecco, mentre invece... Le donne no. Ma no, e soprattutto hanno bisogno di storie, nel senso che l'immaginario femminile è molto più un immaginario che ha bisogno di uno sviluppo. Quindi c'è più storia, mentre il porno è classico, base. Ma alla meta. Bussa la vicina, entra, invece... scusa, ho finito il sale, e c'è naturalmente dentro un ragazzo gagliardo che esce appena dalla doccia. Ah bene, te lo do io, montano sul divano e si fa tutto. Questo è il porno maschile. Quello femminile come sarebbe sviluppata questa trama? Beh, questa trama sarebbe sviluppata che intanto ci sarebbe molto più desiderio, ci sarebbe molto più foreplay, ci sarebbe molto più scambio tra due persone che non sono semplicemente dei corpi sezionati, ma sarebbero dei corpi che esprimono delle personalità di due persone, sarebbero dei corpi probabilmente non così standardizzati, non sarebbero dei corpi per cui un uomo si deve riconoscere sentendosi magari, come dire, inadeguato rispetto a questo modello, no? Che normalmente viene dato, una donna lo stesso. Purtroppo a volte capita. C'è una molta più accettazione della diversità. Io credo che una delle cose che noi mettiamo in discussione della pornografia attuale, insomma mainstream, è proprio la standardizzazione. Però Anna, lei capisce, Anna Negri, che i film porno ne girano 10 in una mezza giornata, in una stanzaccia d'albergo, con stracciaculi che fanno quello e basta, che non è che sono attori e la trama non esiste. Il film è vostro, è un vero film che richiede una sceneggiatura, vogliamo, un soggetto. Questa è la differenza. Siamo registe e che vogliamo fare del cinema bello prima ancora del che. Allora, Francesco Canale, fate un bel cinema in cui l'elemento erotico sia predominante, e quindi è difficile chiamarlo film porno, è un cinema d'autore con una forte componente erotica esplicita, ma deve essere costruito da persone che sappiano il loro mestiere. Sentiamo Alessandra. Alessandra, buongiorno. Pronto? Eccomi. Ciao, buongiorno. Sì. Io chiamo da Ravenna e volevo esprimere un'opinione magari che è leggermente differente. Non trovo che... mi sembra già una discriminazione anche questa. Ma a me piace guardare il porno ogni tanto, cioè io porno che ci offre il mondo, no? Vabbè, ma mica c'è niente di male. Ma trovo che anche il discorso di questo film, che sia sempre puntato sul discorso dell'erotismo, perché la donna ha una sessualità di tipo differente, ok, può anche essere vero, però dobbiamo sempre smorzare i termini quando si parla di donne, no? Come Alessandra, se quando siamo lì, possiamo cosa, Alessandra, fosse una cosa che non va fatta da parte di una donna, sì, che è una cosa che, insomma... Ma è d'accordo, Alessandra, che in quel momento diventiamo tutti un po' bestie, sia uomini che donne. Non c'è bisogno che per forza deve essere una cosa più soft, con una trama, con una cosa. Insomma, no, semplicemente il porno può essere bello per un uomo come per una donna, non perché ti manca qualcosa in casa, non perché, semplicemente perché ti piace guardarlo, punto. E non c'è bisogno che, visto che è per una donna. Ma come al 90%, Alessandra? Delicato, non fa parlare, buona, dai, insomma. Alessandra, come mai al 90% sono gli uomini quando guardano i film porno? Le donne non lo dicono o non sono interessate? Questa è la chiave per cui dicono, guardate, se li guardano uomini vuol dire che un 10% delle donne è attirata da quel tipo di pornografia. Ve ne facciamo una che per voi piace. Ma secondo me anche un pochino di più, ma semplicemente non lo dicono perché sembra sempre che essere una cosa sconveniente. Se la fa un uomo va bene, se la fa una donna è sconveniente, e infatti costruiamo un film apposta molto più soft e delicato che possa piacere alle donne. Secondo me alle donne piacciono anche altre cose, il problema è che non hanno la possibilità di dirlo, perché deve essere per forza solo l'uomo a godere di certe cose, non la donna. Cioè, quindi lei rivendica, diciamo, una pornografia tout court, vera, quella tosta, con gli obelischi e con gli sbattimenti. Ma anche a noi ci piace questo, scusate, perché volete farci vedere soltanto un bel filmino d'autore, ci addormentiamo. Poi, fra l'altro, il film porno non è che uno può starci mezza giornata, questo pensa lei? Appunto, fra l'altro sono i 10 minuti di YouPorn, secondo me. Se voglio vedere un bel film d'autore erotico, vado a vedere un bel film d'autore erotico, ma è un altro discorso, è un altro argomento, allora, secondo me, no? Diciamo che l'argomento è scottante, non l'abbiamo soltanto presentato, ma avrà bisogno di profondi e intensi approfondimenti. A presto.